ogni puntata letteraria il mercoledì metà settimana, magico mercoledì di Radio Città Fujiko, comincia come ogni buon libro con l'incipit. Le prime 20 righe lette e portate in frequenza sui 103.1 da Silvia Pioggia. Oggi abbiamo un capolavoro assoluto, non ve lo anticipo, sarà Silvia appunto a darne l'incipit per voi in questa puntata del 25 ottobre. A tra poco. Ciao, sono la Sissa e questo è l'incipit. Tutto in 20 righe. Il grande Oscar Wilde diceva: non c'è una seconda occasione per fare una prima buona impressione. E allora, che cos'è la prima pagina di un libro se non la sua prima occasione? Ci affidiamo sempre alla prima impressione, quando conosciamo qualcuno, quando dobbiamo cambiare, tutte le volte che dobbiamo fare qualcosa di nuovo. E quindi, perché non farlo anche con le prime righe di un libro? Chissà cosa hanno pensato gli autori nel decidere che sì, quello era un buon incipit per il proprio manoscritto. Chissà se hanno pensato a che effetto avrebbe avuto su di noi potenziali lettori. Io sono molto istintiva e mi lascio attrarre dall'estetica del volume e dal fascino dell'autore. Voi invece, in base a che cosa decidete se e qual libro cominciare? Leggerò insieme a voi la prima pagina di alcuni volumi che mi hanno consigliato persone che solitamente hanno ottimi gusti e scopriremo insieme se questa teoria delle 20 righe è un metro efficace per le nostre selezioni. Questa è la prima pagina di un libro ormai famosissimo, Il gatto pardo, di Tomasi di Lampedusa. Nunc et in hora mortis nostre. Amen. La recita quotidiana del rosario era finita. Durante mezz'ora la voce pacata del principe aveva ricordato i misteri dolorosi. Durante mezz'ora altre voci frammiste avevano tessuto un brusio ondeggiante sul quale si erano distaccati i fiori d'oro di parole inconsuete, amore, verginità, morte. E mentre durava quel brusio, il salone rococò sembrava aver mutato aspetto. Financo i pappagalli che spiegavano le ali iridate sulla seta del parato erano apparsi intimiditi. Perfino la Maddalena, fra le due finestre, era sembrata una penitente, anziché una bella biondona, svagata in chissà quali sogni, come la si vede sempre. Adesso, taciutasi la voce, tutto rientrava nell'ordine, nel disordine consueto. Dalla porta attraverso la quale erano usciti i servi, l'alano Bendicò, rattristato dalla propria esclusione, entrò e scodinzolò. Le donne si alzavano lentamente e l'oscillante regredire delle loro sottane lasciava a poco scoperte le nudità mitologiche che si disegnavano sul fondo latteo delle mattonelle. Rimase coperta soltanto un'Andromeda, cui la tonaca di padre Pirrone, attardato in sue orazioni supplementari, impedì per un bel po' di rivedere l'argenteo Perseo che, sorvolando i flutti, si affrettava al soccorso e dal bacio. Questo libro per me ha un fascino infinito, devo dire senza tempo, quindi ve lo consiglio assolutamente. Come on, my readers! Come on, my readers. Grazie Silvia. Allora, gatto pardo è un tutti i tempi, cambiare tutto per non cambiare nulla, vi sono dei passaggi più che mai attuali, di una bellezza, quando la figlia preoccupata chiede al padre gatto pardo, questo signore siciliano preoccupata, stanno arrivando gli italiani, e lui rispose: non ti preoccupare, entreranno chiedendo permesso e togliendosi il cappello. Così fu, l'ufficiale appunto entra togliendosi il cappello e chiedendo se poteva accomodarsi. È un libro fondamentale, il Gattopardo. Ecco, io ne ho. Non sto criticando la casa editrice, mai guai, ci mancherebbe. Ne ho avute diverse edizioni, poi ne ho regalate alcune, chissà, in tutti quei libri. L'ultimo che ho, di ormai non so quanti anni siano passati, è della Feltrinelli, da una copertina, ecco, che non è bellissima, gusto personale. Ulrich Schnaus, un compositore tedesco per More Music and City Center Office, che abbiamo conosciuto in altri suoni, e appunto, visto che questo spazio a volte è preso da tale rubrica, ho voluto portarlo anche in questa mini playlist odierna. In precedenza invece The Doctor, Lonnie Smith insieme a George Benson alla chitarra, It's a Change, il brano che è stato ripreso poi dagli United Future Organization, questi pregevoli copioni giapponesi, e ne hanno fatto una versione Nemure Nai che è molto bella. Guardate il cielo, almeno qui sopra le zone della noce, è molto particolare, molto adatto per queste sonorità che vi lascio fino alla pubblicità. Nota, come ho detto in apertura di Prima Colazione in diretta, voltiamo pagina, ovviamente c'è, non abbiamo Silvia Albertazzi in diretta in quanto ha un pit stop, un attimo di stagione per riprendersi, auguriamo una pronta ripresa per ritrovare la nostra prof in diretta, ci sarà in diretta telefonica, a presto con il voltiamo pagina, buon ascolto.